Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. La mail oramai la conoscete, semplice, un abuso al giorno, @radio24.it. Il mio blog invece si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore, oppure vi divertite a cercarlo attraverso un motore di ricerca, mettete blog Roberto Galullo e lo trovate. Mi farà piacere se lo visiterete e se mi scriverete sui temi che appunto troverete sul mio blog. Allora, si parla tanto di corruzione, si parla tanto di soldi distratti, si parla tanto di danni erariali commessi da amministratori infedeli o comunque da amministratori ladri, diciamo la parola per come va detta. Fa un certo senso, devo dire la verità, leggere, e traggo la cronaca dalla Nazione del 3 febbraio del 2009, che un ex sindaco di Lastra Signa sia chiamato dalla Corte dei Conti a rispondere di quello che dovrebbe essere un danno. Ma che tipo di danno è? E qui viene il bello: soldi spesi attraverso una delibera del 2002 pari a oltre 15.000 euro per cofinanziare la costruzione di un ospedale in Messico, dare un contributo per un lebbrosario in Guinea, un altro contributo per un centro sociale per anziani a Cuba e un altro contributo per realizzare un pozzo in Angola. Quindi stiamo parlando, cari signori, di cooperazione internazionale, chiamiamola così, decentrata. Ebbene, la Corte dei Conti oggi chiama l'ex sindaco di Lastra Signa a ripagare di tasca propria quello che definisce un danno. E quindi gli dice: caro sindaco, tu non dovevi fare beneficenza, non dovevi fare questa cooperazione internazionale attraverso queste forme, quindi per piacere a ridarci i 15.000 errotti euro. E noi, per sapere di più, abbiamo chiamato l'ex sindaco di Lastra Signa, il simpatico Carlo Moscardini. Buongiorno e benvenuto, Moscardini. Buongiorno a voi. Allora, come si sente col portafoglio più vuoto? Ma intanto ancora la Corte si deve esprimere, deve fare, questa è la valutazione, la richiesta di rinvio a giudizio e quindi di discussione da parte della Procura della Corte dei Conti. Ora, poi la sentenza ancora è da scrivere e quindi mi auguro che il mio portafoglio, ma il portafoglio di quelli che devono ricevere poi gli aiuti, rimanga intatto. Ecco, ma questi aiuti nel frattempo sono arrivati o c'è ancora un processo affinché questi soldini arrivino dove devono arrivare? No, questi aiuti sono sempre arrivati a destinazione, anche perché il concetto di cooperazione decentrata si basa proprio su un rapporto, che è un rapporto diretto tra comunità e comunità. Certo, ecco, io vorrei intanto rappresentare questo ai nostri radioascoltatori. Io sono sicuro, non conosco la situazione in Lombardia, in Lazio, nel Veneto, nel Molise, in Sicilia, ma sono sicuro che ci saranno centinaia di comuni che si sono espressi attraverso delibere per mandare dei contributi alle popolazioni, diciamo così, più bisognose. Di questo ne sono convinto, però intanto rimaniamo a quello che so per certezza. Ebbene, in Toscana ci sono oltre 150 comuni che partecipano a iniziative di cooperazione internazionale. Allora chiedo a Moscardini: ma perché sono andati a prendere lei? Ma sa, questo mi dovrebbe chiedere il procuratore più che a me. Io, assolutamente, ha ragione. Io, ma indipendentemente da tutto, forse ero, perché ero uno dei sindaci più esposti, che aveva fatto anche di questa battaglia una battaglia anche di impegno etico, morale, politico su questa vicenda, ben consapevoli che oggi le amministrazioni locali hanno di fronte a sé due grandi nuove frontiere, quella dell'ambiente e quella dei problemi multietnici. Esatto, ecco, ma voglio chiedere questo: ma lei almeno ha conoscenza di qualche altro suo collega o ex collega che si è trovato una letterina spedita dai giudici contabili, dai magistrati contabili, oppure effettivamente in Toscana il suo è il primo caso? Per quello che conosco io è il primo caso. Ah, bene, cioè male, malissimo anzi. Ecco, le chiedo questo qui, ma facciamo una riflessione a voce alta, tanto non ci ascolta nessuno a parte alcune centinaia di migliaia di radioascoltatori, ma sì, con tanti ladroni in giro, no? Ma proprio uno che fa della beneficenza, insieme alla giunta, voglio dire, insieme alla decisione presa dal comune, devono andare a perseguitare. Che cosa ne pensa lei? Posso rispondere di non sentirmi affatto pentito di quello che ha fatto, certo. E rifarei quello che ho fatto. Ecco, ma una... perché non mi sento, anche se dovesse essere malaugurata ipotesi illegittima, come sostiene la procura della Corte dei Conti, insomma, voi credo di averlo fatto non solo in buona fede, ma che sia fatto poi a fine bene. Certo, con alcuni gli aiuti sono arrivati e sono questioni di carattere estremamente sottili sul piano della legalità, perché ecco, però affermare oggi nel mondo globalizzato che la cooperazione decentrata e l'operazione dello sviluppo è materia solo del Ministero degli Esteri. Eh sì. Significa essere fuori dal tempo. Eh sì, ma anche perché noi ne parliamo, perché questa effettivamente è una, come dire, una decisione che corre il rischio di fare giurisprudenza, comunque di aprire, sì, di aprire una strada, perché effettivamente nelle motivazioni che si conoscono sommariamente la Corte dei Conti avrebbe detto è compito del Ministero degli Esteri, punto, non è compito vostro fare cooperazione. È illegittima. E quindi effettivamente potremmo trovarci di fronte alla prima di una lunga serie di sentenze da parte delle Corti dei Conti di tutte le regioni italiane. Ecco, ma una domanda provocatoria, signor Moscardini, ma con tante situazioni di disagio che ci sono nel nostro paese, no? Penso e sono sicuro che ce ne saranno anche in Toscana, magari, mi auguro di no, ma magari anche nel suo comune. Perché andare a fare un gesto di solidarietà, di beneficenza, di vicinanza, di fratellanza nei confronti di chi è in Nuova Guinea piuttosto che nel Messico e non farlo invece nei confronti di chi c'è più vicino? Perché quella scelta voi avete compiuto nel lontano 2002? Perché io ritengo che oggi soprattutto la cooperazione decentrata si debba basare su quella che è la condivisione di quelli che sono gli obiettivi tra paesi che donano e quello che ricevono, e la reciprocità. Cioè, nel senso che non è vero che quando si fa cooperazione c'è soltanto la scelta, cioè, di donare. In alcuni casi dobbiamo anche noi imparare. E in alcuni casi alcuni valori che noi stiamo perdendo e stiamo smarrendo forse si ritrovano in quei paesi. Ecco, quindi un do des mi sembra molto solo, significativo capire, quello che lei dice. Anche per capire, per educare, per capire e per comprendere le ragioni, perché poi tanta gente monta su un barcone e arriva in Italia. Certo. Se non si conoscono le ragioni, poi l'unico elemento che abbiamo di fronte è quello del conflitto legato all'immigrazione. Assolutamente, è vero, effettivamente sono cose che possono aiutare moltissimo. Una domanda cattiva? Non lo so, mi risponda lei. Lei è un simpatico toscanaccio, come solitamente si suol dire, quindi risponderà senza problemi. Ma non è che poi magari il costo di missione dei consiglieri, degli assessori per portare questi soldi ha superato l'importo che invece voi avete dato a queste popolazioni? Non è che c'è stata una lega magnata, sono andati tutti quanti lì in corteo i consiglieri e quindi c'è stata una gran spesa da parte del vostro comune? Assolutamente no, anche perché poi sono contributi talmente esigui da questo punto di vista, sì. 15.000 euro, voglio far presente, spesso e volentieri sono le cifre che vengono date per contributo per la fiera delle fiattole, insomma. Infatti, no, il mio no, l'avrà capito, era, certo, era una forzatura, una provocazione, ma sapevo già la risposta, ero convinto che la sua risposta sarebbe stata assolutamente degna e convincente. E anche perché poi noi ci siamo preoccupati di non lasciarla questi contributi a fine a se stessi, perché poi alcune di queste situazioni, come quello dell'Angola, dove c'è un padre che fa un discorso con i bambini, o della, sono venuti a trovarci e a testimoniare qualcosa, è quell'esperienza, è la vita, quei percorsi anche molto duri, insomma. E questo ha colpito la popolazione. Non è casuale che tutti questi progetti poi hanno continuato, hanno avuto rapporti indipendentemente poi anche dalla stessa ente locale, la parrocchia, il CISL, eccetera, ha continuato a fare solidarietà, aveva un rapporto diretto. Sì, insomma, questo si è scatenato, credo sia il compito oggi di una, di un ente locale. Ecco, si è scatenato un circuito virtuoso sul quale, ricordiamolo a chi si fosse messo in ascolto solo ora, che la Corte dei Conti ha detto: no, caro comune di Lastrassigna, tu non potevi fare questa cooperazione così chiamata decentrata, non potevi mandare delle somme più o meno grandi fuori dai confini comunali nel terzo mondo, in Messico, quindi in Sud America, in Centro America, dove fosse, perché non è il tuo compito. Io ringrazio l'ex sindaco di Lastra Assigna, Carlo Moscardini, per il suo intervento e ricordo nel lasciarvi che la Toscana, ed infatti non a caso ha avuto la solidarietà della regione, ha addirittura un assessorato alla cooperazione. Nel 2008 ha stanziato la bellezza di 8 milioni di euro tra interventi di cooperazione sociale ed interventi di cooperazione sanitaria. Quindi, come dire, si profila un futuro non semplice per gli enti locali che decidono di donare, ma come abbiamo sentito anche ricevere, da chi non è in condizioni ottimali. Grazie a Pietro Lacorte in regia e a Laura Faggin in studio e Roberto Carullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.